Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Innovation positively defines the CE industry, and the 2010 International CES is the place to see it all. For CES TV, I'm Tara Dunyan with an update on... Allora, l'avete sentito? Questo era il CES di Las Vegas, il Consumer Electronics Show, che parte adesso, no, Mario Cianflone? Parte in questi giorni. Poche ore c'è il discorso di Steve Ballmer, il grande capo di Microsoft, insomma l'ennesima fiera di Las Vegas sull'elettronica di consumo, il grande momento di confronto su quelli che saranno gli oggetti non di domani, e non siamo sicuri quello che succederà, siamo però convinti che vedremo moltissimi televisori in tre dimensioni. E proprio sul tema dei televisori di tre dimensioni abbiamo voluto dedicare questa puntata, anche perché erano la promessa dell'anno scorso, sono comparsi qualche modello quest'anno e sono la certezza di oggi. Sì, sicuramente. Allora, abbiamo una scheda di Alessandro Longo, che è esperto di telecomunicazioni, adesso si sta misurando anche sul tema dei televisori. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, saluto tutti. Saluto. Ciao, ecco, Alessandro. Ci spiega un attimino come funziona il 3D nella scheda. Film in 3D sono già comuni nei cinema, come sa chiunque non sia stato chiuso in una caverna negli ultimi mesi. È meno noto però che i film 3D possono avere tre diversi sistemi di funzionamento, a seconda di come è attrezzata la sala. Sono tre modi per simulare l'effetto tridimensionale delle immagini. Una tecnica è il Real D Cinema, anche detta polarizzazione passiva. Ogni scena è ripresa in due fotogrammi. Uno rappresenta quella scena vista dall'occhio destro, l'altra dall'occhio sinistro. Real D utilizza occhiali passivi con lenti speciali polarizzate in modo diverso tra un occhio e l'altro. Una seconda tecnica è il Dolby 3D. Usa la moltiplicazione delle frequenze, cioè separa quelle dei colori rosso, verde e blu. Gli occhiali hanno filtri per interpretare la separazione delle frequenze. La terza tecnica è Xpand ed è a polarizzazione attiva. Le immagini sono proiettate alternativamente ai due occhi. Il lavoro di creazione del 3D avviene negli occhiali, che quindi sono detti a funzionamento attivo. Sulle TV il 3D viene creato tramite polarizzazione passiva o attiva. Nel primo caso la TV deve avere filtri, nel secondo deve avere un chip specializzato per proiettare le immagini in modo alternato. In entrambi i casi servono occhiali speciali, passivi o attivi rispettivamente, ma solo con il sistema attivo l'immagine ha una buona risoluzione. Insomma, in entrambi i casi, scrive Alessandro Longo, serviranno degli occhiali. E insomma, l'idea che ci siamo fatti nel momento in cui si è passati in brevissimo tempo dall'HD, poi il Full HD. Nel frattempo noi in Italia stiamo ancora litigando sul digitale terrestre, ci sono ancora regioni dove si prende male, e già adesso arrivano sulle tre dimensioni. Insomma, l'idea che ci siamo fatti, Mario, è che... Mario, tra l'altro, ricordiamo, responsabile della sezione tecnologia del sito del Sole 24 Ore, è che sia l'ennesimo modo di farci mettere le mani nelle tasche. Tra l'altro c'è anche il LED, se non sbaglio, per cui l'altra tecnologia... Diamo conto una cosa sul LED. Il LED non è la terza via tra plasma e cristalli liquidi. È un modo per illuminare i cristalli liquidi. Alcuni costruttori, e in particolare Samsung... cercano di proporre questo come la terza via per fini di marketing. Non è la terza via, sì, tra sono cristalli liquidi. Toshiba ha forse in questo momento, leggevo, la tecnologia, secondo me la tecnologia migliore da quel punto di vista, ma è un altro tema. Detto questo, insomma, restiamo sul 3D. Tu, Mario, l'hai visti i televisori in 3D? Che impressione ti sei fatto? Che quantomeno è molto divertente, è molto coinvolgente, è sicuramente un'esperienza particolare, soprattutto in casa o in un ambiente ristretto, dove l'abbiamo provato anche nelle salette di Panasonic, al CITEC di Tokyo. L'idea che mi sono fatto è che con gli occhialetti è troppo invadente in ambiente domestico. Bisogna creare un momento ad hoc, questo la vedo difficile. Tant'è che lo stesso CEO, il numero uno di Panasonic, ha dichiarato più volte, questo è il primo step. Il 3D vero arriverà con televisori in grado di riprodurre l'immagine senza mettersi nulla sulla testa. Esatto, e questo lo vedremo a brevissimo. Tra l'altro ricordo il numero verde per gli ascoltatori, 824-0024. Insomma, se sentite puzza di bruciato, se avete informazioni, se pensate che il mondo dell'elettronica di consumo in un momento di crisi sta tirando fuori dal cappello l'ennesimo coniglio strano, chiamate oppure scrivete al 349-238-6666. Alessandro Longo, ti sei andato a vedere un po' queste tre tecnologie diverse per le tre dimensioni. Tu che idea ti sei fatto? Secondo me quella che poi nei cinema si diffonderà di più, almeno nei cinema, è quella più economica, con gli occhialini economici, la prima che ho citato, Real D. Mentre nelle case, quei pochi televisori in 3D che ci saranno nei prossimi anni, saranno probabilmente con un sistema attivo, perché quell'altro abbiamo visto che è davvero una qualità, una risoluzione davvero, davvero scadente, poi quanto pare è anche più costoso quel sistema passivo. Quindi insomma, come hai detto tu Luca, effettivamente sembra che la tecnologia sta correndo come insomma su un calesse impazzito, molto molto più avanti forse rispetto a quello che i consumatori possono adesso permettersi o volere. Tra l'altro tu hai realizzato una scheda che andiamo appunto a sentire, in cui fai anche un po' il punto di quella che è la presenza dei televisori 3D in Italia e nel mondo. Sentiamola. Le prime TV 3D sono sul mercato dal 2008, ma fino ad oggi sono state molto di nicchia. Se ne sono vendute 400.000 nel 2009 nel mondo, secondo Screen Digest. È opinione comune che diventeranno di massa solo dal 2012, quando ne saranno vendute 15,9 milioni, per poi raddoppiare nel 2013. Ancora non tantissime, è vero, ma è l'inizio di un boom in rapida progressione. Almeno stando alle previsioni. Per i prossimi 5 anni le TV 3D più comuni saranno quelle che proiettano in modo alternato le immagini all'occhio sinistro e destro e che richiedono occhiali con schermi LCD. È un sistema più economico, infatti, rispetto a quello a polarizzazione passiva. Al momento, inoltre, quello è il solo modo per combinare il 3D con immagini ad alta definizione. Le aziende del settore preparano non solo film, ma anche videogame in 3 dimensioni. In questi 2 casi occhiali e TV 3D sono gli stessi. Nel prossimo decennio dovrebbero attecchire invece tecnologie 3D più sofisticate, che non richiedono l'uso di occhiali. Finalmente, gli occhiali sono un fastidio per molti. Tra qualche anno arriveranno anche i primi programmi TV in 3D, per ora ci sono solo in Giappone, e con questo passo il cerchio sarà chiuso. Ma chissà se le aziende non hanno fatto i conti senza l'oste. I consumatori saranno disposti a comprare sempre nuovi televisori? Sì, insomma, la domanda è un po' questa. I consumatori saranno disposti a fare un salto, anche perché, come dicevi tu, Mario, è un passaggio di... cioè il tele... vedere uno spettacolo in 3 dimensioni presuppone il fatto di star fermi, per esempio. Cioè, muoversi cambia leggermente la visuale, per cui quando sei a casa di solito sei sul divano, insomma difficilmente è come quando stai al cinema che sei su una sediolina. Poi interagisci dal telecomando o alla birra, alla pizza, tutto quello che è di contorno mentre vedi un film. Cioè la vedo difficile stare fermi con degli occhialetti. L'altra tendenza è quella dei giochi. Allora, su questo tema forse è un po' più interessante, perché c'è un tema di entrare dentro al game, e questo è sicuramente più interessante, però io almeno ho 2 perplessità che volevo condividere. La prima è il fatto che il cosiddetto hardcore gamer, cioè la persona che ama i videogiochi, è abituato a una tipologia di gameplay, una tipologia di approccio al gioco standard, cioè non vuole occhiali, non vuole nulla, al limite vuole sperimentarsi sui movimenti. Infatti da questo punto di vista sono molto interessato a capire cosa succederà a Las Vegas sul progetto Natal, che è questo nuovo sistema che si applica alla Xbox della Microsoft, dove si potrà sostanzialmente giocare agitando le mani. Ecco, questa è una modalità di gioco che trovo forse interessante, che non si applica naturalmente a tutti i giochi, però insomma il fatto di dover sparare come fanno i bambini, no? con le dita, o il fatto di giocare a pallavolo simulando il movimento, facciamo finta, quello è divertente. Alessandro, tu che sei un videogiocatore, a me interesserebbe provare un gioco in tre dimensioni. Io credo che i videogiocatori, a differenza degli amanti del cinema, siano meno tradizionalisti, motivi vari, anche anagrafici immagino, ma anche per una maggiore attenzione alle nuove tecnologie, no? Che sono più collegate ai videogiochi. Cioè, tu dici sono più giovani, quindi tu sei... Poi anche cioè, mi stai dando del vecchio, sostanzialmente. No, ma poi anche i videogame sono più tecnologici che dei film, quindi immagino che gli appassionati di videogame siano sostanzialmente più pronti alle nuove tecnologie rispetto agli appassionati di film, mediamente. Quindi io credo che, forse lo pensi anche tu, Luca, in fine conti... Devi stare più vicino al telefono, Longo, che... Io credo che i videogame in 3D avranno un loro pubblico, mentre sui film... No, niente da fare, stai camminando. Dove sei, Alessandro Longo? Sto camminando nella mia stanza. Bravissimo. Allora, in 3D. Degli insulti che arrivano dalla regia, giustamente. Allora, no, si sta fermi. Come quando si vede un film in 3D. Come quando si vede, esattamente come si guarda. Mettere gli occhialetti. E devi mettere pure gli occhialetti, mi suggerisce Cianflone. No, comunque, insomma, la tua tesi è abbastanza... tu dici, la carta d'identità di un videogiocatore, tale per cui, insomma, si diverte a sperimentarsi. Dovrebbe essere pronto alle nuove tecnologie. Secondo me l'immersività anche di un videogame in tre dimensioni potrebbe giustificare l'acquisto da parte... di alcuni, almeno di una TV, probabilmente anche di una console. Alessandro, ti dobbiamo risentire, ti richiamiamo perché non si sente. Io torno invece con Mario, perché al di là dell'aspetto del game c'è anche un aspetto economico. I produttori, queste sono le ultime dichiarazioni, anzi le primissime dichiarazioni che arrivano anche da Las Vegas, insomma, si legge su internet, per cui sono delle anticipazioni, parlano di un costo di questi nuovi televisori in tre dimensioni che si aggira intorno sui 2000 dollari, forse più. Per cui, insomma, parliamo di un televisore di fascia medio-alta. Ecco. Per cui, da questo punto di vista, non ci sarebbe un ingresso di nicchia dei televisori a tre dimensioni nella casa, nel salotto domestico. Tu ci credi oppure stanno un po' mettendo le mani avanti? Seconda ipotesi, stanno mettendo le mani avanti anche perché il prezzo dei Flat TV è in crollo verticale. Perché un prodotto da 2000 euro inizia a essere un prodotto molto sofisticato per la media di mercato, a prescindere dalla cifra tecnica. Un prodotto da 2000 euro o anche da 2000 dollari è un prodotto ormai molto costoso rispetto alla media di mercato, dove trovi 42-46 pollici per cifre ben inferiori ai 1000 euro. Ma io volevo chiederti una cosa. Secondo te perché hanno fatto il LED? Cioè il televisore a LED, perché questa è una mia... Ma è un punto, cioè non perché il 3D lo posso capire, anzi poi lo spiegheremo perché si è passati a ragionare su una tecnologia antica, perché ricordiamoci gli occhialini di Colo, i primi anni 60, esatto. Film di fantascienza, sì, cioè Came from Another Space, esatto, ma, film. Ma c'è un bestiario da questo punto di vista eccezionale, però è chiaro che, però insomma il salto lì lo andiamo poi a spiegare bene, però il LED, che di fatto che cosa sono? Sono delle lampadine poste dentro al televisore che esaltano in un certo senso i colori. Ecco, quello è un passaggio che non ho capito, se non una chiave forse di design. No, allora il LED è una trasformazione importante della tecnologia LCD. I pannelli LCD sono stati illuminati da sempre con lampe da fluorescenza. Quindi con un ingombro sostanzioso in termini di profondità e consumi elevati e una resa non uniforme sul pannello. Le prime tecnologie a LED, che si chiama full backlight, ovvero questa batteria questo pannello dietro al cristallo liquido che illumina il pannello a cristalli liquidi, permette di ottenere un'ottima resa in termini di illuminazione e di ridurre i consumi e anche il calore prodotto, perché un pannello a 40 pollici rischia di diventare in caso una stufetta. Esatto, scalda come un calorifero. Scalda. E in termini di design, Samsung è stata tra le prime a inventarsi una roba che si chiama Edge. Che tra l'altro si distingue l'Edge perché è sottilissimo. È sottilissimo. E ha i LED intorno. Ha i LED intorno che illumina il pannello dai bordi. Questo vuol dire che comunque riesce ad arrivare al centro fino all'80% di illuminazione. La resa è leggermente inferiore, se ne accorge nessuno in pratica. Non se ne accorge nessuno. La maggior parte dell'utenza media non se ne accorge. Che ho letto la stampa specializzata, sì, che sai che sono... Vedo il Toshiba full LED rispetto a un Samsung LED TV. È un'altra cosa. È un'altra cosa in realtà, però all'atto pratico dubito che un utente normale evoluto possa accorgersene, soprattutto settando bene il televisore. Il fatto di avere un televisore sottile un centimetro è, in mia opinione personale, un non senso. Cioè, una volta che non abbiamo più un televisore profondo mezzo metro o 60 centimetri, ce l'abbiamo 5 o un centimetro, una volta che lo appendiamo, lo mettiamo a ridosso al muro, non ci cambia nulla. Sì, bello il design, poi impazziamo con i cavi che non ci stanno. Vabbè, tra l'altro questo era il secondo problema, che non è mica... Sì, perché poi sono molto belli nelle riviste d'arredamento, ma queste cose vanno messe in ambiente. Mentre gli altri, cioè è solo Samsung che è molto stretto, perché tutti gli altri invece sono un pochino... Sì, perché loro hanno fatto leva sul sistema Edge, sull'illuminazione laterale. Questo gli ha permesso di costruire questa categoria di pannelli che chiamano LED TV, con sì, un'aberrazione del come se fosse una terza via tra plasma, che in mia opinione personale resta il sistema migliore per quanto la tecnologia è arrivata quasi al capolinea. È il sistema migliore, ricordiamo, il plasma dal 42 pollici in su, però sì, dal 42 pollici in su, assolutamente. Perché questo sotto non li fanno, però la resa secondo me è superiore. Ma i pannelli LED ultra sottili, sì, sono da sicuramente un oggetto di design. Ecco, noi abbiamo in collegamento, per aprire, anzi per voltare pagina, ma fino a un certo punto, Angelo D'Alessio, che è direttore internazionale della SMPTE, l'organizzazione di standardizzazione per cinema e televisione. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, insomma, adesso ci siamo fatti prendere da un momento un po' nerd sulle tecnologie e sui televisori, cioè un momento terribile, di solito capita a me, Mario Cianflone. Ma la seconda parte di questa storia, che parte dai televisori in 3D, è che la vera origine del tutto nasce a Hollywood. Quattro anni fa, narrano le leggende, alla Pixar si sono seduti Pixar, Disney, i grandi produttori, e hanno deciso che per riportare le persone nelle sale cinematografiche era necessario inventarsi qualche cosa, cioè il cinema in 3D. Da allora sono successe molte cose, e da allora quello che assistiamo è anche a una sorta di strana evoluzione degli standard, se non sbaglio. Allora, andiamo per ordine. La terza dimensione, quindi stereoscopia, che normalmente viene a essere identificata come 3D, mentre invece nel nostro gruppo di lavoro a livello internazionale mai parliamo di 3D, ma parliamo di contenuto stereoscopico o contenuto monoscopico, e anche contenitori stereoscopici o contenitori monoscopici. Quindi facciamo una grande di differenza tra contenuto e contenitore. Per quanto riguarda il cinema digitale, io ho sentito delle spiegazioni bellissime per quanto riguarda i tre sistemi di fruizione su grande schermo e quindi al cinema. In effetti bisogna considerare una cosa molto importante: anche se abbiamo tre tecnologie diverse per quanto riguarda la fruizione, il sistema di proiezione, cioè il proiettore, il server e tutti gli altri apparati che fanno capo al media block, così, e anche il contenuto che viene messo su un DCP, Digital Cinema Package, è esattamente compatibile con tutti e tre i sistemi. Non so se rendo un'idea. Questo è il primo passo che è stato portato avanti dall'SMPTE. Cioè l'SMPTE non ha standardizzato nessun sistema di fruizione, perché è libero il mercato di adoperare il sistema RealD e XpandD. Cioè, in altre parole, cosa succede? Cioè, stiamo parlando di un settore che alla fonte, cioè il produttore di contenuti, per intenderci, sì, produce film ad altissima definizione digitale, sì, un po' come preferisce, un po' come vuole, con le tecnologie che vuole. Non è costretto da nessuno a utilizzare uno standard. Andiamo per ordine. Il cinema digitale, qui parliamo di cinema digitale perché mi interessa anche di televisione, però vorrei parlare un attimino di cinema digitale su grande schermo. Gli standard internazionali non tengono assolutamente conto dei sistemi di acquisizione, cioè il creatore della storia è libero e deve essere libero di adoperare la tecnologia che più soddisfa chiaramente i suoi desideri. Lo vuol fare bianco e nero, lo fare a bassa definizione, alta definizione, in qualsiasi modo. E questo è un bene. Esattamente, questo è un grande vantaggio. Quindi uno è libero, non possiamo standardizzare questo settore dell'acquisizione. Il problema è un altro: nel momento in cui ognuno ha costruito il suo contenuto, ovvero ad esempio la carrozza d'oro, la carrozza di legno, con i letti dentro, il ristorante e cose di questo genere, devi viaggiare su dei binari che sono internazionalmente standardizzati nelle varie regioni in cui questo treno deve andare. E quindi lo standard è relativo ai binari, quindi al sistema di distribuzione. Allora, per cui il problema dov'è, se c'è un problema? Il problema è che vendere la libertà di creare il contenuto come uno preferisce, con una telecamerina piuttosto che con un telefonino, piuttosto che con la telecamera che è quella che verrà utilizzata, che è stata utilizzata per Avatar, no? Esatto. Il problema è nel momento in cui poi io lo trasmetto, perché certo, la cosa che viene richiesta è di mantenere una fedeltà rispetto a quelli che sono i diktat, i desiderata dell'autore. Esattamente. Andiamo per ordine. Per quanto riguarda lo standard, noi standardizziamo il file dei dati, quindi il sistema di codifica e il sistema di encryption dei file dei dati relativi al contenuto, che sono unici a livello mondiale. Il contenitore, in effetti, può essere a scelta di chi deve distribuire. Può adoperare il sistema di distribuzione media fisico, con media fisico, quindi un optical disc. Un dischetto, un DVD. Hard drive, può adoperare il cavo, può adoperare il satellite, può adoperare qualsiasi sistema, ma il file dei dati è standardizzato. Noi non abbiamo assolutamente standardizzato il sistema di distribuzione. Ecco, questo che cosa comporta? Comporta una cosa molto semplice, che nei momenti in cui uno desidera, per varie ragioni fondamentalmente economiche, adoperare un sistema invece dell'altro, lo può assolutamente adoperare senza nessun problema. Quindi questo significa un vantaggio per quanto riguarda il mercato, questo è il punto. Ma non si creano problemi poi sul fronte di quella che è la fedeltà? No, assolutamente. Allora andiamo per ordine. Nel momento in cui noi distribuiamo questo segnale, poi gli apparati che fruiscono di questo contenuto, quindi il contenuto, faccio il downloading al server dove io devo, certo, poi visualizzare, gli apparati di visualizzazione devono essere standardizzati, quindi anche quelli sono standardizzati. Quindi cosa significa? Io standardizzo il file dei dati dei contenuti, la distribuzione la faccio come voglio io, no? Ok, questo quindi è quello che avviene, questo è chiaro, questo è quello che avviene in teoria. Sì. Adesso ci fermiamo un secondo, perché poi vogliamo capire se poi nella pratica questa standardizzazione funziona. Allora, resti con noi che ci sentiamo subito dopo la borsa. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono. Stiamo cercando di capire qualche cosa in più sulle tre dimensioni, sul cinema digitale, sulla televisione digitale. Siamo con Alessandro Longo, che è ancora in collegamento con noi. Alessandro, ci sei? Certo. Perfetto. Angelo D'Alessio, direttore internazionale dell'SMPTE, che è l'organizzazione per la standardizzazione del cinema e della televisione, e con Mario Cianflone, responsabile della sezione tecnologia del sito del Sole 24 Ore. Insomma, li ho detti tutti. Allora, io vorrei tornare sul tema delle standardizzazioni per capire quanti sale in Italia, insomma, riescono a mantenere il grado di fedeltà dell'autore. Allora, la domanda è a me, ad Alessio? Sì. Allora, lei ha centrato il più grande problema che noi siamo non pronti ad affrontare. E mi spiego meglio. Una volta stabilito lo standard per quanto riguarda la preparazione dei contenuti, una volta stabilito lo standard per quanto riguarda il sistema di proiezione e player, no? Sì. Ecco, tenga presente la stereoscopia, non era possibile. Che è quella di Avatar, per intenderci. Senza il cinema digitale, perché il cinema digitale porta il proiettore in cinema digitale a lavorare con un solo proiettore a 144 fotogrammi al secondo, che significa ogni fotogramma o sinistro o destro viene a essere proiettato tre volte sullo schermo, quindi non c'è movimento di immagine fissa, eccetera. Allora, quando parliamo di stereoscopia non dobbiamo dimenticarci una cosa importante: la stereoscopia significa portare i piani di visualizzazione delle immagini virtuali in vari piani. La manoscopia, il piano di visualizzazione, è esattamente il piano fisico, e lei è lo schermo, no? No, qua non la seguo, non ho capito. Mi spiego meglio. Quando noi proiettiamo un'immagine, l'immagine è sullo schermo, no? Sì. Ecco, o monoscopica o 3D, ok? È sullo schermo. La stereoscopia, invece, non soltanto ci fa vedere questa immagine fisica sullo schermo, ma ci simula anche vari livelli, no? Dietro o davanti allo schermo. Cosa significa questo? Che l'audio che le sale attuali adoperano deve essere anche modificato, nessuno parla dell'audio. Sì. Il surround attuale non è rispondente a questa visualizzazione del 3D stereoscopico, perché abbiamo una visualizzazione non soltanto laterale, nel lato sinistro, lato destro, c'è Mario Cianflone che sta esultando sulle sue parole perché il tema dell'audio è uno dei suoi cavalli di battaglia. Esatto, quindi questo è un grande problema, primo. Secondo, le voglio dire, ci sono delle sale che non sono assolutamente adatte, non mi faccio dire questo però, quali sono le sale, assolutamente adatte per la stereoscopia, non soltanto per l'audio, ma per quanto riguarda anche la predisposizione delle sedie. Quindi, perché la predisposizione delle sedie? Le spiego subito, nel momento in cui lei si mette sul lato destro, no? Per esempio, sì, la fila destra, c'è l'immagine virtuale, no? Del 3D fuori dallo schermo, no? Ok? Lei dietro non vede più lo schermo come la monoscopia, vede delle non so, può vedere la lucetta dell'uscita di emergenza, non so se rende idea. Sì, può, certo. Vedere, e quindi non simula la terza dimensione nel modo reale, quindi anche la predisposizione. Quindi il mio cuore di genovese è un sussulto, nel senso, io vado a spendere i miei 3 ore in più per avere l'occhialino di plastica e tutto quanto. Mi metto, quindi bisogna mettersi in centro e arrivare un po' prima nella sala, ammesso che sia adatta. Bisogna trovare il posto giusto, che noi lo conosciamo, quindi voglio dire. Giustamente Mario Cianflone dice in casa ancora è utopico. Guardi, voglio dire, queste sono più o meno le problematiche, ma anche il contenuto. Chi ora, guardi, le dico subito, io ho partecipato con Lucas, ora sto lavorando alla trasformazione del Star Wars da 2D a 3D, no? E quindi abbiamo dei problemi per quanto riguarda questo. Perché? Perché non tutte le scene che lei gira sono adatte per il 3D. Nel momento in cui lei, ad esempio, termina una scena, l'ultimo fotogramma del piano sequenza 1 e il primo fotogramma del piano sequenza 2, se non sono omogenei tra di loro, gli occhi si orientano in modo strabico, sì, o non strabico, generando l'affaticamento del cervello, insomma, della persona. Ecco, e questo è un grande problema. Ecco, da Alessio c'è Mario che vuole aggiungere una cosa. Sì. Ecco, volevo farle una domanda proprio anche l'utilizzo di queste tecnologie in ambito domestico. Io, ahimè, sono abbastanza vecchio per aver visto molte tecnologie troppo complicate fallire, dai dischi analogici in vinile quadrifonici del 74-76 alle Elcaset per finire con io avevo 4 anni nel 74 comunque. Lo so, non avevi molti di più, un però po' giocavo sull'età. Però giocavo con sta roba, cioè, è un bambino intelligente, va bene. No, a parte questo, o il Super Audio CD più recente, sono stati tutti dei grandissimi flop, sia per la mancanza di contenuti, sia per l'eccesso di complicazione domestica. Lo stesso Home Theater, Dolby Surround AC3, versione digitale, economica, standardizzato, c'è dappertutto. Quanta gente in casa ha 5 casse posizionate come Dio comanda e un subwoofer messo bene? Eh beh, certo. D'Alessio. Ho idea che il 3D possa diventare un fallimento, se non dal punto di vista di standard, dal punto di vista dell'utilizzo, oppure dell'adozione. Allora, io vedo una cosa molto semplice, e cioè fare velocemente le cose o farle bene, e quindi io credo che molti si stanno orientando a fare le cose velocemente, non fare le cose bene. Cosa significa? Anche la cinematografia digitale o il cinema digitale sono tentati a fare le cose come le vediamo in modo veloce, specialmente per creare un vantaggio competitivo. Questo si nota nel 3D, guardi, io lo noto assolutamente, applicate sia alla televisione che al cinema. Ecco, posso quindi fermarla, perché proprio sul tema di fare le cose velocemente volevo introdurre la tecnologia del 3D applicata al Blu-ray, perché sì, questa dovrebbe essere la più vicina, il più vicino confine al 3D, almeno questo qua probabilmente sarà uno dei temi di Las Vegas, verrà annunciato a brevissimo. Alessandro Longo oggi ha... Samsung lancia il primo lettore Blu-ray con il 3D dentro, esatto. Alessandro Longo ha realizzato una scheda proprio su questo tema, sentiamola. Nell'immediato vedremo film in 3D a casa tramite dischi Blu-ray, che ora utilizziamo solo per l'alta definizione. Le cose potrebbero però andare diversamente in futuro. Invece che su dischi, i film arriveranno nelle case sempre più tramite connessioni internet banda larga. Negli Stati Uniti sono servizi già abbastanza diffusi, offerti da giganti come Apple, Amazon, Blockbuster, solo per film normali a due dimensioni però, almeno per il momento. In Italia i servizi per vedere film via banda larga sono ancora poco diffusi e poggiano per lo più sulle offerte IPTV, cioè TV via DSL, degli operatori telefonici Telecom Italia, Fastweb e Wind. Nel 2010 dovrebbe diventare più diffuso questo metodo alternativo per distribuire e vedere film, visto che stanno arrivando nuove offerte e prodotti per collegare i televisori a internet. Il prossimo passo, forse, sarà quindi il 3D via banda larga, niente più dischi. E sarebbe anche ora, tanto più che il Blu-ray non è riuscito ancora a superare i DVD nelle vendite. Ci sta mettendo molto più tempo del previsto. Sarà che la gente si chiede perché doversi portare a casa dei dischi quando su internet già circolano quasi tutti i film usciti in commercio? Quindi Alessandro Longo, sembra la chiave è quella. Siamo qui a ragionare sul 3D, adesso arriveranno i Blu-ray in tre dimensioni. Il Blu-ray è sicuramente un formato che sta facendo una fatica mostruosa ad affermarsi, forse non si affermerà. Nel 2010 le previsioni dicevano che avrebbe dovuto sostituire completamente i DVD, questo non è successo, è slittata di due anni. Ecco, l'impressione è che inventiamoci il Blu-ray 3D così vediamo se succede qualche cosa. Alessandro Longo, tu che idea ti sei fatto? Il Blu-ray 3D, se la speranza di Blu-ray Association è quella di utilizzare il 3D per dare la spinta al Blu-ray, beh, è molto ottimistico, perché un po' fragile, diciamo. Beh sì, abbiamo già visto che il 3D resterà nei prossimi 4 anni di nicchia, perché saranno TV apposta, no? E quindi non sarà certo il 3D a salvare il Blu-ray, a dargli la spinta verso il boom definitivo, il superamento del DVD. Quindi certo mi farebbe preoccupare se l'associazione, l'industria si affidasse al 3D per salvare Blu-ray. Io credo che invece il 3D su Blu-ray sarà una cosa in più per una feature, come diciamo, sì, una cosa in più, ma alla fine si passerà al Blu-ray in massa quando i lettori Blu-ray costeranno probabilmente 100 euro. Adesso sappiamo come fai, una questione di prezzo, no, di vil denaro. No. Mario, concordo assolutamente con Alessandro. I lettori Blu-ray ancora costano parecchio di più di un lettore DVD standard. Inoltre, la qualità del DVD è la qualità attesa e voluta dalla maggior parte delle persone. È molto difficile far comprendere all'utente normale quanto è più bello vedere un film in Blu-ray. Qualora, che è la vera sfida. Che è la vera sfida. Qualora percepisse l'effettiva differenza, non è disposto a spendere il doppio o poco meno del doppio, sì, per avere e portarsi a casa il dischetto argenteo. Anche perché poi non sono neanche tanti, non sono tutti i film in Blu-ray. Poi ragioniamo su un altro punto. Il 90% degli acquirenti di un film in DVD probabilmente non lo vede una seconda volta. Ah beh, certo, certo. A meno che non si va a vedere tutti i contributi. Sì, ma quanti sono? Quanti uno sono? Che ce l'hai davanti e allora basta. Il film all'euromercato, alla cassa del supermarket, 15 euro in DVD, 9,90, lo prendo, lo porto a casa, lo lascio lì. Un Blu-ray da 29, ci penso due volte. Ecco, noi abbiamo anche in collegamento Simone Arcagni, che è professore di cinema a Palermo ed è un collaboratore di Nova, perché con lui nella seconda parte della trasmissione, nella terza parte della trasmissione, porteremo avanti il ragionamento su quello che cambierà Avatar, perché insomma adesso ci stiamo interrogando sul 3D perché, anche perché il 15 gennaio, per cui insomma tra pochi giorni, insomma è promesso, viene lanciato, è stato venduto l'evento, cioè il film che cambierà, è un po' il Guerre Stellari del cinema, cioè il film che cambierà definitivamente la storia del cinema, ecco. Vedremo sicuramente se sarà così, però con lui vogliamo capire se questo film innanzitutto realmente cambierà le cose, ma se porterà qualche cosa di nuovo anche sul fronte dei contenuti. Quindi nel frattempo io ringrazio per questa seconda parte della trasmissione Alessandro Longo e Angelo D'Alessio. Ci sentiamo subito dopo con Simone Arcagni, ora linea al traffico. Nova Lab 24. Allora, siamo ritornati subito. Simone Arcagni, professore di cinema, buongiorno. Buongiorno, ciao Luca. Ecco, allora, il tema, insomma, abbiamo ragionato sul 3D a casa, sugli annunci, sì, sui televisori, siamo passati agli standard, abbiamo visto quello che succede nelle sale, che funziona fino a un certo punto. Sì. Questo mi sembra uno dei punti fondamentali, tra l'altro. Esatto, e adesso siamo tutti qui in attesa di... Tutti qui, insomma. Io personalmente sono in attesa di vedere quello che dovrebbe essere il film che sancirà questo passaggio, questa moda del 3D che è Avatar. Sì. Un tuo parere? Sì, Avatar è una scommessa. Potrebbe essere veramente una pietra angolare. Per molti motivi, prima di tutto perché, come diceva giustamente Angelo D'Alessio, spesso la fretta ha fatto sì che i film in 3D non fossero un granché, questo dobbiamo anche dircelo. Avatar ha impiegato 10 anni di lavorazione, sui siti si rimpallano le notizie su che cosa è stato fatto, con che tecnologie, promette di essere qualche cosa di diverso, davvero di essere un'esperienza. Avatar non è un film per bambini, anche se anche Up non era un film per bambini, a ben vedere neanche Mostri contro alieni, però si va a insinuare in una fetta di mercato decisamente differente, più adulta, più diversa, promette di essere il film su cui Hollywood può puntare come un filone, sarà la Hollywood dei colossal da costosissimi e quindi con una produzione ridotta, però ridotta nel numero, ma qualitativamente, dall'esperienza più emozionante o no, Avatar potrebbe essere questa strada qua. Cosa che il film del sabato, mi stai dicendo, cioè il film del sabato sera, quello con i popcorn, quello che quello un po' Luna Park, che deve colpire l'immaginazione. Io ho l'idea che il cinema inteso come sala cinematografica, come spettacolo, ormai da diversi anni si sia indirizzato verso quella logica lì, verso la logica di... Blockbuster. Sì, grandi incassi a Natale, il sabato e la domenica e per pochi film. Tra l'altro con un problema anche, che però questi pochi film sono distribuiti in massa e quindi chiudono anche gli spazi. Io da studente di cinema, adesso faccio un po' il nostalgico, quando andavo al cinema 20 anni fa vedevo molti più film africani, iraniani, ora è quasi impossibile, e io ne vedo molti. A meno di non passare da internet, o sbaglio? Nel senso che poi l'altra cosa è che di fronte noi abbiamo un cinema di serie A, no, sì. Quando, non sui contenuti ma sugli effetti speciali, e poi abbiamo un mezzo come il internet che invece sta diventando veicolo di contenuti diversi. Sì, io tra l'altro sono d'accordo con, non ho capito chi ha fatto l'osservazione sul Blu-ray, che alla fine non capisce, la maggior parte delle persone non capisce la qualità del Blu-ray, ma questo è un trend, non è che non la capisce, è che si adatta il flusso di immagini presente sulla rete, presente nelle edicole, presente nei mercati, in tutte le varie forme, è più puntato alla quantità che alla qualità, e quindi l'utente medio preferisce crearsi una sua Wikipedia, non so come dire, mi sembra che il trend sia quello, abbasso la mia, me lo vedo sul videofonino, me lo vedo sul computerino portatile, me lo vedo come un francobollino, me lo vedo in AVI con tutti i puntini di pixel, ma intanto me ne vedo in quantità industriali, ne prendo dei pezzetti, li rimetto online, cioè mi sembra che di contro a un cinema appunto interstellare alla Avatar ci sia poi una sorta di cinema, non so se è ancora più cinema, si può chiamare un cinema diffuso, un audiovisivo diffuso, che invece abbassa la qualità ma offre tantissimo. Dove forse l'amante del cinema iraniano si troverà davanti un PC. Ma molto probabilmente sì. Così. Io come tale mi trovo davanti a un PC quando voglio vedere queste cose, è un dato di fatto, non c'è poco da fare. Però è anche un dato di fatto, è anche un dato di fatto che dopo Mostri contro alieni, che è stato diciamo il primo film di animazione in tre dimensioni, ne sono usciti a un'altra decina e hanno guadagnato moltissimo, come anche un dato di fatto che questo mi ha stupito, però insomma i grandi incassi al cinema sono Guerre Stellari, che è del 77, e Titanic, che è del 97, poi basta. Sì. Per cui insomma la scelta del 3D forse si legge anche da questi due numeri, da questi due star dell'incasso. Certo, sì, ma non è una novità, Hollywood da sempre ha puntato a superare la crisi con dei cambiamenti tecnologici, o al contrario i cambiamenti tecnologici gli hanno fatto fare dei passi in avanti, cioè dall'arrivo del sonoro sincronizzato al colore, al Panavision, il Technovision, tutte le serie, dico, hanno aiutato i grandi passaggi, e se si vanno a guardare quei momenti, e Guerre Stellari si insinua direttamente in quello, è il momento dell'elettronica, Coppola, Lucas, Spielberg stanno studiando l'elettronica, stanno creando quello che poi sarà un digital domain, l'ILM, eccetera, eccetera, e lì c'è un fulcro, c'è qualche cosa che sta nascendo, un immaginario nuovo, e c'è uno spettatore che vuole vedere la novità. Io penso che i risultati del botteghino di questi film siano più legati alla novità che alla reale potenzialità. Up è un film bellissimo, ma non si riesce veramente più di tanto a capire, se non in alcune finezze di scenografie. Non per tutti, diciamo. Ecco. Perché il 3D? Cioè, a me una cosa che stupisce tanto è il fatto che tutti i film in 3D che ho visto, compreso Christmas Carol, Piovono Polpette, Fly to the Moon, eccetera, hanno una messa in scena cinematografica che è 2D. Cioè, non so come dire, i personaggi non sono nati già con la nuova logica. Ma no, è come se avessero la scultura e fanno una pittura, ma la maggior parte di questi, ma è un dato reale. Io ho parlato poco tempo fa con Rob Bredo, che era il capo di sovraintendeva gli effetti in 3D della Sony per Piovono Polpette, anche lui dice, ma noi vogliamo andarci cauti, non vogliamo spaventare troppo lo spettatore, potrebbe essere un effetto psichedelico avere tutto un film 3D, non sappiamo ancora, cioè al di là poi delle parole di Katzenberg, che da 2 anni va in giro per pubblicizzare al massimo. Io adesso mi sto riferendo ad Alessia Maccafei, che mi ha appena raggiunto in studio. Sì. Si vede che ha studiato cinema, perché quelli che studiano cinema dopo un po' cominciano a citare gli autori, gli danno quasi del tu. Sì, è un classico. Mamma mia. No, però Simone, Sì. Io vorrei fermarti qui perché tra l'altro adesso siamo in chiusura, insomma i concetti sono abbastanza chiari, e volevo fare due chiacchiere con Alessia Maccaferri per presentare il numero di domani di Nova, anche perché ci scrivi anche tu tra le altre cose, per cui mi sembra doveroso. Tutti allora, grazie del collegamento. Grazie Arcagni. Alessia, domani cosa esce in edicola di bello? Noi Luca abbiamo puntato su un tema che ci aveva accompagnato anche nel 2009, che è quello dell'energia. Nel 2009 abbiamo visto Copenaghen e il parziale fallimento almeno Nova Lab l'ha vissuto proprio sulla schiena. Addirittura qualche ascoltatore ci ha scritto nelle mail: ah, avete visto che avete perso perché ci hanno visto come dei super partigiani, sì, sul fronte del... Però è anche vero che sì, abbiamo perso, non ci aspettavamo di vincere, però insomma pensiamo che la battaglia non si concluda, che sia solo una battaglia, insomma la guerra si vince. Infatti noi guardiamo a lungo periodo, guardiamo al prossimo decennio, al 2020, perché c'è la politica ma c'è anche la scienza e la tecnologia, e questi stanno facendo dei passi avanti non da poco. E infatti noi abbiamo giocato in questa copertina che mi ricordi il titolo? La luce in fondo al decennio. Cioè, su tre scoperte che forse non sono state prese in considerazione. Noi non diremo queste tre invenzioni, queste tre innovazioni oggi, le leggeremo domani su Nova, e che probabilmente renderanno forse più vicini gli obiettivi, viene a dire, di Tokyo, ma insomma gli obiettivi che sono usciti dal vertice di Copenaghen. Peraltro racconta Marco Magrini che sono innovazioni che sono già in parte tra noi, basta solo vederle e valorizzarle. Sì, una di queste, vabbè, l'anticipiamo perché altrimenti sembra troppo misteriosa, insomma, le batterie, ecco. Noi ci aspettiamo, anche perché la ricerca sulle batterie è antica, nasce in Giappone per certi versi, perché si faranno nei prossimi 10 anni dei passi molto concreti su questo campo, e si avrà così un risparmio energetico notevole. Poi c'è tutto da capire il discorso dello smaltimento, ma questo è un altro piano. Però ecco, se mettiamo insieme tante piccole innovazioni che stanno avvenendo anche un po' sotto traccia, forse al di là delle grandi decisioni degli stati, insomma qualche passo in avanti per avere un pianeta un po' più pulito, un po' più accettabile, cioè ecco. Certo, anche perché queste innovazioni si stanno diffondendo sul mercato e quindi il prezzo tende a calare, no? E tra l'altro c'è anche un motivo economico. Io direi di fermare. Abbiamo un'altra cosa da segnalare dentro? Il diritto d'autore, per esempio. Dal 1 gennaio di quest'anno sono scaduti i diritti di autore di alcuni grandi autori, scrittori, artisti contemporanei, e questo ci interessa perché? Perché essendo di pubblico dominio sono accessibili a tutti, sono accessibili ai social network, si possono riutilizzare queste grandi opere della letteratura, essere rimesse nei canali via internet, possono rifluire nuove opere d'arte nei blog, nelle installazioni, e creare nuove sorgenti di ispirazione. Va bene, io non faccio il Buona Befana perché non si dice, poi è anche così, Nova Lab non dice Buona Befana, però insomma do l'appuntamento a domani. Adesso ci sono le news, grazie Alessia. A presto. Il super telefonino di Google piace, e non solo alla blogosfera che ha commentato freneticamente per tutta la notte l'annuncio dello smartphone prodotto da HTC. Giudizi contrastanti, ma molto interesse. Più tecnologico dell'iPhone, ma non meno bello, il primo prodotto marchiato Google appare in foto così. Nato per essere connesso alla rete e pronto a incamerare tutte le presenti e future innovazioni di Mountain View, Nexus One, così lo hanno chiamato, funzionerà con la versione 2.1 del suo sistema operativo Android e sarà dotato di uno schermo touchscreen da 3,7 pollici. Sul sito google.com/phone il telefonino è presentato come mai prima d'ora. Provare per credere. Tuttavia, da lontano, senza averlo ancora toccato, stupisce favorevolmente il software di riconoscimento vocale e le dimensioni dello schermo. Pollice verso, invece, su applicazioni e softwareini. Ma per quelli è ancora presto. Apple insegna. E proprio Steve Jobs, nel giorno di Nexus One, prova a togliere qualche riflettore annunciando un nuovo record del suo Apps Store. Raggiunta in meno di 18 mesi, 3 miliardi di applicazioni. Il primo miliardo è dell'aprile scorso e il secondo della fine di settembre. Il raggiungimento in poco più di 3 mesi del terzo miliardo vuol dire che il ritmo dei download ha avuto un'ulteriore accelerazione, probabilmente anche per merito del periodo natalizio. Cambiando argomento, dopo la pausa natalizia, domani torna Cristina Tagliabue. Parleremo del Festival del giornalismo di Perugia che quest'anno si apre a Twitter. Un'ultima notizia. Dal 18 gennaio, Novalab andrà in onda alle 16.30, sempre su questa emittente.